Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Per il convegno della Caritas di Treviso di questo sabato 11 maggio è stata preparata una locandina che è significativa e anche a tema con la Corsa Rosa, il Giro d'Italia che è in corso in questi giorni. È la famosa foto di Bartali e Coppi che si passano la borraccia. Non si è mai capito da quale parte, da chi a chi andasse la borraccia. Perché è stata scelta questa immagine? Lo chiediamo al direttore della Caritas, Don Davide Schiavon. Ben trovato, Don Davide. Grazie, che ben trovati a voi e anche ai vostri radioascoltatori. Ma ecco, diciamo, l'immagine che è stata proposta nella locandina vuole proprio sottolineare, ecco, l'importanza in questo momento di essere con e essere per gli altri, cioè cogliere, ecco, che siamo tutti chiamati, ecco, a guardarci dentro e a cogliere, ecco, che abbiamo grandi possibilità, ecco, di aiutare gli altri, di costruire reti di solidarietà, e questa non deve mai partire, ecco, da un punto di forza in cui qualcuno si sente autorizzato ad essere più forte perché ha più possibilità, ma proprio anche nella semplicità di questo gesto ricordato da questi due grandi campioni vogliamo, ecco, proprio spronare un po' la nostra gente a ritrovare, ecco, quel DNA che ha fatto di queste terre anche proprio dei campioni di solidarietà, ecco, nel dire è un dare e un ricevere reciproco, ecco, che vuole sottolineare proprio quella che è l'attività silenziosa ma preziosa, ecco, che si svolge nei nostri paesi, nelle nostre parrocchie, nelle realtà delle Caritas parrocchiali, ecco, dove l'incontro con chi ha bisogno, ecco, non è mai un incontro discriminante, ma vuole essere proprio un incontro di condivisione e di crescita insieme. Vuoi ricordarci il programma di questo convegno? Sì, ecco, nel convegno che è rivolto certamente alle Caritas parrocchiali, ma poi anche a chi desidera, ecco, noi presenteremo un po' quelle che sono le scelte che la nostra Chiesa diocesana attraverso la Caritas ha fatto come progetti in questo tempo, ecco, soprattutto nel cercare di prestare ascolto, attenzione alle nuove povertà e quindi cercando anche di concretizzare in forme che possano incontrare i diversi disagi, ecco, che oggi si acuiscono anche nel nostro territorio, per cui ci sarà da parte proprio degli operatori Caritas un presentare, ecco, quelle che sono le progettualità in atto nei confronti dei minori, del carcere, delle famiglie in difficoltà e di tutte quelle realtà, ecco, che accostiamo giorno dopo giorno. E questo ve l'ha fatto poi anche così attraverso la presentazione di quella che è la lettura, ecco, dei dati che ci vengono dal nostro centro di ascolto diocesano e dai centri di ascolto territoriali, ecco, mettendo in luce, ecco, come certamente le necessità e i bisogni crescono, ma c'è anche una risposta proprio che riprende, ecco, l'immagine di cui prima parlavo, molto significativa, ecco, come Chiesa, ecco, di in attenzione proprio ai poveri. Questo è veramente un segno che volevamo proprio evidenziare. Certamente, ecco, c'è una crescita delle fatiche e delle difficoltà, ci sono delle risorse che si assottigliano, ma sta crescendo anche questo desiderio profondo di condivisione, e questo è veramente una luce di speranza molto preziosa. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Quello che dicevi prima era appunto anche la nostra tradizione regionale, veneta, di essere solidali tra di noi, era quello che hanno le famiglie, le grosse famiglie, certo, del nostro territorio. Dicevi anche delle iniziative che vengono proposte, dei progetti a livello diocesano, ma molto si lavora anche sul territorio, le Caritas parrocchiali, le Caritas vicariali. Cosa vi arriva dal territorio, visto che la diocesi è molto, molto grande e ha zone evidentemente diverse per struttura e per storia? E diciamo che ciò che sta accomunando, ecco, proprio il territorio di Cesano, pur, ecco, nelle peculiarità anche di ogni singola realtà, è quella veramente, ecco, di tante famiglie che oggi incontrano delle difficoltà e per cui indubbiamente quella dimensione del lavoro, ecco, che abbiamo anche a livello nazionale, ecco, come grossa fatica, ecco, quella legata alla casa e al poter, ecco, garantire anche alle nuove generazioni delle condizioni, ecco, accettabili. Oggi è un po' messa in crisi, ecco, questa sicurezza, e questo lo notiamo trasversalmente. Ecco, su questo punto di vista e su questa realtà, ecco, vediamo come anche le Caritas proprio dei vari territori si stanno realmente dando da fare, cercando di andare incontro, ecco, con quell'assistenza che permette, ecco, di dare un po' di sollievo, ecco, su una diocesi come la nostra, con tutti i centri di ascolto, centri di distribuzione che sono disseminati nel territorio, ecco, riusciamo veramente ad affrontare, ecco, una distribuzione che è molto significativa, ecco, si arriva, ecco, a distribuire su un anno più di 90.000, 100.000 borse spese, ecco, quindi questo significa veramente, ecco, che c'è una grossa attenzione, e questo viene sia da enti, ecco, che danno del materiale, come può essere il Banco Alimentare o altre strutture, ma anche dalla generosità della gente. Ecco, certamente, ecco, io credo che in questo momento si stia risvegliando anche questo desiderio, ecco, di ritrovare, ecco, relazioni più autentiche, di sapere ritrovare questo germe della solidarietà che è veramente fondamentale. Diciamo, ecco, che indubbiamente accanto ai bisogni, ecco, proprio anche materiali, c'è una si coglie, ecco, una grossa necessità di ritrovare relazioni autentiche, perché, ecco, non possiamo dimenticare che la solitudine, ecco, certamente l'isolamento è uno dei problemi che più forte si fanno sentire, ecco, per cui, ritornando all'immagine del manifesto, anche questo non sentirsi soli è come sentire, ecco, che in qualsiasi circostanza c'è qualcuno che tende la propria mano verso di te, ecco, oggi diventa veramente più di qualche volta, ecco, motivo per ritrovare il senso della vita, ecco. Su questo dunque il convegno questo sabato in Casa della Carità dalle ore 15. Un'ultima domanda te la pongo a proposito della recentissima, su cui si sta discutendo, proposta del neo ministro Chieng sulla cittadinanza ai nati in Italia. Sì, beh, credo, ecco, che è una proposta non solo, ecco, che legittima e valida, ma, ecco, che è profondamente rispettosa, ecco, di quella che è la dignità di queste persone, ecco, che hanno fatto un percorso che certamente necessitano anche di un riconoscimento che spetta a loro, ecco, per cui credo che indubbiamente quello che viene messo in luce anche dal nuovo ministro è un percorso che da tanto tempo, ecco, viene caldeggiato, ecco, ed è stato portato avanti anche con parecchie iniziative a cui anche Caritas ha partecipato, come l'Italia Sono Anch'io e altre iniziative per caldeggiare proprio questo diritto alla cittadinanza. Io credo che sia, ecco, venuto il momento proprio in questo contesto, ecco, di abbattere un altro muro, ecco, credo che certamente nel mondo sono stati abbattuti molti muri, ecco, ce ne sono ancora altri, ricordando che i muri più duri da abbattere sono quelli che abbiamo dentro la nostra testa, dentro il nostro cuore. Credo che qui questa può essere un'occasione veramente per essere sempre più, ecco, una società civile a tutti gli effetti, ecco, non solo a livello di parole, ma proprio nella concretezza dei fatti. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.